Io sono Kofler Nicola, ho 43 anni, sono nato e cresciuto e sempre vissuto a Besenello. La mia professione principale è quella di impiegato contabile in un ente pubblico della regione. La terra, sembra che io possa essere slegato dalla terra, in realtà non lo sono perché sono nato e cresciuto in una famiglia di agricoltori. Mio zio è agricoltore a tempo pieno, mio padre ha fatto l'operaio e l'ho sempre aiutato in campagna, quindi io ho imparato da loro. E tutto quello che so è una grande riconoscenza verso di loro perché mi hanno insegnato tantissime cose che da solo e anche con i libri eccetera non avrei potuto fare. Preciso sempre che il lavoro principale lo fanno i miei e io sono un aiuto. Coltivare la terra per me quindi non è solo un lavoro, è anche una passione. Quando vado in campagna è un lavoro anche impegnativo, però si vede un risultato tangibile anche di quello che si fa, le piante che crescono, germogliano, fruttificano e maturano i frutti, è sempre una bella emozione, insomma. E non da ultimo che la terra ci dà quello su cui noi dobbiamo vivere, insomma, ecco. Abbiamo l'orto a casa, c'è sempre stato e quindi oltre all'aspetto più, tra virgolette, ovvio, che magari non lo è per tutti, ma comunque che il fatto che è più buono è anche diverso perché c'è sì un lavoro, ma poi fare i 5 gradini di casa e 10 metri, andare nell'orto vicino a casa a raccogliere la verdura che si è piantata, che si è cresciuta, è anche una soddisfazione, insomma. E poi di questi tempi, non lo nascondo, c'è anche un risparmio, insomma, diciamolo chiaramente, insomma. Anche se sono relativamente giovane, in campagna ho visto molti cambiamenti. Non ho visto l'agricoltura di sussistenza come hanno visto i miei genitori. C'era già un'agricoltura che puntava alla produzione per la vendita di vite, di uva da vino, eccetera. In campagna si andava con la zappa, l'ho sperimentato anch'io, per fortuna solo per pochi anni, si andava in tanti, c'era lo zio, c'era la sorella, c'era lo zio, il nipote, si andava in 4-5 a lavorare tutto il giorno tutti assieme. Ora invece è diventato un lavoro più solitario, un po' più meccanizzato, un po' più standardizzato. A volte sembra quasi una catena di montaggio. Si va in campagna, un giorno si fa tutto di corsa, poi in quel campo non ci si va più magari per 10 giorni o un mese, in alcune stagioni, e si deve fare sempre in fretta. Vorrei raccontare un aneddoto che mio zio, che è classe 1944, mi ha detto che quando andavano da giovani con il bue in campagna andavano solo la mattina, perché il pomeriggio il bue e le persone erano stanche. Quando è arrivato il cavallo, andavano la mattina, il pomeriggio sotto la pergola d'estate all'ombra si riposavano 2 o 3 ore gli uomini e l'animale e poi si lavorava. Quando è arrivato il trattore si andava in campagna la mattina e si torna la sera, non c'è più tempo per fermarci. Quindi questo per dare un po' l'idea di come è stato cambiato e stravolto il mondo. Non nego che ci sono anche vantaggi perché gli attrezzi, oltre ad averci velocizzato, ci ha risparmiato molte fatiche, insomma, quindi non è tutto negativo il cambiamento. L'importante è anche mantenere una memoria quando magari, per non farci lamentare nelle cose che quest'anno non va bene, sono pochi soldi, ma forse una volta i soldi erano ancora meno, la fatica era di più. In campagna si parla sempre al maschile, ma non dimentichiamoci delle donne, perché è vero che guida il trattore che gli uomini, ma se in campagna fino ad ora anche fossero mancate le donne, cioè nel raccolto fino a qualche anno fa, chi è che si andava a cercare? Le donne si chiamavano, o gli studenti questi ultimi anni, cioè se negli anni addietro fossero mancate le donne, probabilmente metà raccolto rimaneva, come dicono, sulle pergole. Perché le donne sono quelle che lavorano e magari sono meno valutate. Lo dico anche se sono un uomo, ma lo riconosco, insomma. Una sostenibilità ambientale, magari per chi non è addetto ai lavori, ci sono dei trattamenti che una volta non c'erano, trattamenti diversi, magari. È un po' il figlio dei tempi. Qui produciamo vino, che può essere anche un bene, diciamo, voluttuario, che potremmo anche farne a meno. Ma la maggior parte dell'agricoltura produce bene per sfamarci. E se non ci fosse stata meccanizzazione, irrigazione e trattamenti sanitari, probabilmente ci sarebbe ancora la fame nel cosiddetto mondo sviluppato. Certo, poi questi trattamenti devono essere fatti con coscienza, devono essere usati il minimo possibile per poter permettere alla pianta di fruttificare, di non ammalarsi, ma di non ammalare anche l'operatore che lavora in campagna e il resto della popolazione. Io credo che comunque siamo migliorati in questi tempi perché vedo in campagna ci sono più insetti e più animali di una volta e quindi credo che questo sia anche un segno che l'ambiente poi non è messo poi così male. Poi naturalmente si può sempre migliorare e questo ci affidiamo, dobbiamo fidarci un po' con fiducia anche nella scienza sicuramente e poi anche noi stessi, insomma, nella nostra maniera di lavorare. Una cosa che mi riesco ancora a farmi meravigliare, anche se non sono più un bambino, è che, come diceva una pubblicità, che la Terra non manca mai del suo appuntamento. La stagione può essere in ritardo, può essere in anticipo, però tutte le primavere, qua da noi le piante crescono, germogliano, anche in questo periodo che c'è scarsità d'acqua, ho le piante di frutta a casa che coltivo, consumo e faccio le confetture, eccetera, che loro fanno uscire i loro bellissimi fiori, anche se l'acqua è scarsa, poi speriamo arrivi. Quindi ha i suoi tempi la natura, però comunque può essere in ritardo o in anticipo, ma arriva sempre ed è una cosa bellissima, insomma, perché pensare che tutti gli anni la pianta ci dà dei frutti più o meno belli, più o meno tanti in quantità, eccetera, comunque è una cosa che mi fa sempre meraviglia e che ringrazio chi l'ha creata questa bellissima natura. Forse la solitudine è uno degli argomenti che mi ha fatto comunque fare la scelta di lavorare in un ufficio tra quattro mura con una luce, perché è bello l'aria aperta, però stare tutto il giorno in campagna da soli, magari ogni tanto scambiare anche due parole. Allora, qui siamo in un campo di Lagrange, di proprietà della mia famiglia. Siamo nella località catastale Vignali, quindi un nome, un programma, insomma, per capire. E questo campo me lo ricordo quando venivo da bambino ad irrigare le viti con l'impianto a scorrimento che c'era prima delle girandole e prima ancora dell'impianto a goccia. Questo campo è stato inserito in un progetto qualità, vale a dire non si punta ai quintali, o perlomeno c'è una produzione indicativa o un obiettivo di 80 quintali ad ettaro. E poi il pagamento è in base alla superficie e poi si devono portare un obiettivo qualitativo. E le viti qua sono molto belle, è una bella qualità, una qualità autoctona del Trentino Alto Adige, è il suo posto evocato perché è il terreno giusto e quindi sono molto soddisfatto di questo campo. Una delle meccanizzazioni che ci ha aiutato molto sia come fatica sia come tempo sono le legatrici automatiche per i tralci, perché con le vecchie strope d'inverno mio padre aveva le mani distrutte. Cioè, gli usciva il sangue dalle mani d'inverno perché con il freddo le gare non si potevano tenere i guanti. Un problema che ho visto, la plastica si deteriora, si sminuzza e sono particelle non raccoglibili. Quindi stiamo attendendo una soluzione tecnologica per questa cosa. Il contadino sta un po' scomparendo perché magari per alcuni il contadino è un termine quasi dispregiativo, ma io dico come fa a essere dispregiativo uno che di lavoro coltiva la terra e ti dà quello di cui il tuo sostentamento per vivere, no? Ma si sta un po' uniformando che il contadino diventa imprenditore agricolo. Allora l'azienda, Paolo Contentino, non è più l'azienda da campagna di una volta, i 2, 3, 4 ettari che il contadino si coltivava e si arrangiava e chiedeva aiuto nei periodi di picco di lavoro, come sempre è stato normale, e si vuole un po' omologare all'internazionale. Noi abbiamo la pergola trentina, no, la pergola non va bene, ci vorrebbe il guyot, ma io la mia opinione è che in realtà il guyot va bene perché è meccanizzabile, la pergola trentina. No. Vogliamo omologarci, ma per cosa? Per fare confronti con la pianura padana o con le coltivazioni in America? Non lo so. Vediamo di tenerci alla nostra dimensione e valorizzare il nostro lavoro e i nostri prodotti. Poi ho capito che se il mondo cambia un po' dobbiamo cambiare anche noi, ma rincorrere, rincorrere, rincorrere, passiamo tutta la vita a correre, non arriviamo mai. Teniamo di buono quello che c'è di nostro e vediamo di migliorarlo.